Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Hola, attenzione 10. Oh, oh. Hola. Hola, oh, oh. Hola, hola. Hola. Hola, oh. Hola, oh. Hola, hola, hola, oh. Attenzione, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova, cambio, cambio. Hola, hola, hola, hola. Ecco, ecco, a voi, a voi, a voi, a voi. Gianni, Gianni, caldo, caldo, caldo, caldo. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, sa, sa, prova, prova, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola. Hola, 1, 2, 3, prova, prova. Hola, hola, 1, 2, 3, prova, prova. Oh, oh, oh, 1, 2, 3, prova, prova. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola. Oh, oh, oh. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Break? Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Che è avanti? Ciao Gianni. Ciao Carlo, come sentite? Allora, cosa mi racconti? Sempre al solito, dai, dai. Sempre al solito, Carlo. Addirittura mi avevano detto che avevano chiuso le sale operatorie perché non c'erano più fondi a Sassari, li avevano inviati tutti a Cagliari. Invece io ho chiamato e mi hanno detto che fine settembre, primi, ma settembre, lui, fine novembre, dicembre mi chiamano, capito? Speriamo bene, dai, così a vederti camminare, dai. Come va questo microfono, Carlo? Passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, questo che è il microfono che ho fatto, quello dello spinotto che ti ho detto. Il segnale, diciamo, è traballante, nel senso che ha picchi sino a 9, 9 più 30, poi scende 7 e sale. E com'è possibile, boh? Infatti anche la voce è trema, capito? È come se ci fosse qualche filo non attaccato bene, qualcosa del genere, che sta facendo contatto e si sposta, capito? Guarda se succede la stessa cosa adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di meno, di meno. Ma è la radio o è il segnale? Chissà che è il segnale, però anche la radio un po', diciamo, va tipo balbettando, capito? Boh. Che adesso, aspetta. Infatti adesso ho sentito anche il beat e non è, non lo accompagna tutto il beat, capito? Ma lo senti quasi tagliato. Aspetta che controllo lo spinotto di dietro che si è avvitato bene. Magari, guarda, mi sembra qualcosa di collegamento, magari. Carlo. Sì, Gianni. Guarda adesso come va, c'era il piede un po' svitato, guarda se è quello. No, no, c'è sempre questo effetto vai e vieni del segnale, capito? Anche il segnale. Oltre la radio è anche il segnale. Ma che microfono stai usando già? È un microfono amplificato della Proxel. Si sente perché adesso ho aumentato anche il volume per sentirti meglio e ho visto che questo difetto lo fa sempre, capito? Cioè, quando passa il segnale anche la radio è una interruzione continua, questo è intermittente, capito? Infatti però qua la scadenza, tipo se io adesso sto trasmettendo tu vedrai la lancetta ferma, no? Invece la tua va avanti e indietro. Ci vediamo un po'. Vedi un po' magari se è un problema forse di microfono. Buonasera ragazzi da Tony, mi copiate? E avanti Tony, buonasera. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Così facendo quattro chiacchiere con Gianni che sta provando una radio, adesso sta provando a cambiare l'apparato perché aveva un segnale un po' intermittenza, capito? E niente, tu cosa fai di bello Tony? Carlo, come Gianni. Hai capito? Claudio, troppo potenza e... scusa un attimo Tony, che c'era Claudio sotto. Ripeti Cla. Perché c'è un regolato per la banda laterale. Dile Gianni che è tutto fuori frequenza. È a 27, 200 e rotti, sembra in banda laterale. Adesso sta cambiando radio. Infatti c'avevo il segnale che andava e veniva, cioè era, lo sentivo chiaro, però era tipo intermittenza la voce. Sicuramente tu che hai la possibilità vedi un po' che è fuori frequenza. È entrato Tony adesso a salutarci. Avanti Tony. Sei anche. No, ma vi lascio che sono in altre bande, era solo per dirti questo, visto che hai difficoltà. Di da Gianni che è fuori frequenza. Sembra che stia trasmettendo in banda laterale. Ok, ciao ciao. Però adesso con questo apparecchio come mi sentite? Questo va bene, ciao. Fino ad ora c'è qualche cosa, l'ho toccato involontariamente, aspetta che controllo. Adesso forte e chiaro Gianni, avanti Tony. È tutto fuori frequenza, quasi a 27, ma l'ho guardato bene, ma è un po' fuori, proprio completamente, sembrava in banda laterale. Vabbè dai, ciao ciao. Ciao Cla. Necessità di mettermi in contatto con chi aveva l'antenna lunga turbo, quella quasi 2 metri. Cioè sono io. Ok, come posso rintracciarti eventualmente senza appunto parlare qua sul canale di numeri di cellulare? Eventualmente, non lo so chi ce l'ha, tu lo lascia qualcuno. Provo, vabbè, io non ho problemi eccetera, facciamo una cosa, sentiamoci un attimo in settimana e cerchiamo di trovarci in qualche modo. Ascolta, ti do il mio numero, allora, 340 83 65 55. Tu sei anche su Facebook? Sì. Allora facciamo una cosa, è preferibile che invece del numero ti lascio il nome, Antonio Porpedu, prova a mandarmi un messaggio, Porpedu con la Q di D. Come Porpedu? Palermo, Otranto, Roma, Q di quadro, Udine, Empoli, Domodossola, Udine, Porpedu con la Q e due D. Tu WhatsApp non ce l'hai, scusa. Aspetta, non ho copiato bene. WhatsApp ce l'hai? Ce l'ho. E cercami su WhatsApp, ti do il numero 340 83 65 75, è più semplice. Questo non è quello che c'ha il fuoristrada nero? Non lo so, Clano. Sei tu che c'hai un fuoristrada nero? Non mi sente, dille se c'è un fuoristrada nero. Non sono riuscito a copiarlo. Hai un fuoristrada nero tu? Pronto? Ma sto uscendo? Sì, sto uscendo, Clano. No, mi sento, vabbè, sono con la radio della banda laterale. Dille se c'è un fuoristrada nero. Il numero cambio. Hai un fuoristrada nero? Tony, cazzo, non mi sento. Forse sta cercando a me su WhatsApp. Avanti, ecco, se mi ripeti il tuo numero ti cerco, mi mancano altre cifre, 34083. 65755. E confermo, ho ricevuto, ragazzi vi lascio che scendo alla macchina e ti cerco subito, chiudo e un abbraccio e un bacione a tutti da Tony. Ciao Tony, ciao. Tony, ciao, ascolta, c'è Claudio che ti chiedeva se hai un fuoristrada nero. Sì, ho un Range Rover Sport nero con tutti i vetri scuri che in questo momento è in riparazione, perché io vendo auto, lo dico tranquillamente, anzi mi lascia avere. Ah, no, sono import-export, vendo auto giù alla piazzetta all'ex Palazzo Ali Service, con, posso dire i cognomi, tanto siamo pubblici, con Dussoni che aveva i supermercati d'Espal. Sì, è un Range nero, in questo momento avevo un Mercedes CLA, Sventin Break, adesso una Golf. Va bene, so chi sei comunque, d'accordo. Dai, ti saluto, ciao ciao. Gianni, adesso un attimino che ti faccio un colpo di tre. Gianni, cos'è, cambiato radio? Adesso già stai uscendo bene? Adesso sono col Galaxy. Adesso è stabile, voce, beh, perfetto, dai. Santiago Super, fondo scala e radio ottima. Prima sicuramente avevi problema o al microfono oppure la radio, non lo so. Claudio ha detto che eri fuori frequenza, come se fossi in banda laterale addirittura. Ah, siccome ieri siamo andati sul 15 alfa, abbiamo girato, probabilmente io, come ho spostato praticamente la frequenza per andare sull'11 alfa usa più clarifer, quindi perché col 3009 non c'è il tasto diretto, capito? E quindi usate il clarifer per andare sul 15 alfa, probabilmente mi sono dimenticato di toccarlo, ma adesso se devo guardare, devo accendere la luce e controllare. Capito, capito, sì. Così mi ha detto Claudio che tutto fuori frequenza, ed era quello allora il problema, magari poi il resto è tutto a posto. Carlo, ci sì. Avanti. Eia, adesso devo fare una prova, devo controllarmi l'apparecchio, perché non mi scende giù, perché il 3009 è nuovo, cazzo. Non l'ho mai usato, due volte l'ho trattato, aspetta che sicuramente è questo. Allora, così è chiuso. Così adesso l'ho messo giusto e aspetta che prova a attaccare. Va bene, già sono qua, già. Attenzione Carlo, ci sei? Sì Gianni, avanti. Guarda come va. E adesso è stabile, sia il segnale che la radio. Era quello, dai, era spostato. Infatti, sembrava strano. Comunque, adesso è il segnale bello fermo, fondo scala, non traballa più e nemmeno ho la voce. Ho capito, dai. Probabilmente ho fatto quell'operazione di ieri, siamo andati sul 15 alfa, perché c'è meno QRM, lo sai, sui canali alfa. Ce li ho anch'io. Sì, ho detto, per modulare c'è meno QRM, si sta a meglio. Ascolta, cosa ti volevo dire, tu ne avevi QRM in questo periodo, io ce l'avevo abbastanza alto. Sì, ne avevo anch'io, era alto in questo periodo, tanto è vero che a Bombolo lo sentivo in mezzo al QRM, la radio, e non l'ho mai sentito così basso. Antonio stai dicendo? Sì. Non l'ho più sentito Antonio. È molto indaffarato, dai, si sta trasferendo, è un po' indaffarato, la moglie sta per partorire, quindi. Ah, ecco, allora l'arcano, perché ogni tanto si faceva sentire. Sì, ma già riprende. L'altro giorno è entrato dal posto di lavoro, perché c'è la stazione anche lì, è entrato dal posto di lavoro e niente. Praticamente lo sentivo, sì, ma basso di radio, capito? Già lo so dove lui, ci sono anche andato lì a posto di lavoro, quando uscivo in bicicletta ogni tanto ci passavo. E la bicicletta usando la stai ancora? No, da quando ho avuto quel problemino dietro, mi avevano detto di far cicatrizzare bene tutto prima. Gappa, aspetta che controllo un attimino il telefono. Vai, io sto preparando la cena qua già. Già sono in ascolto. No, oggi mi migliore riprendo le pizze se ce la faccio, perché trovo sempre occupato. È perché oggi è festa, capito? È fine settimana e la gente tra partite e tutto prende d'assalto un po' le pizzerie e le ordinazioni. Ho capito, dai. Ho capito. Praticamente io avevo preso, te l'avevo detto che mi avevo dimenticato, ho tolto l'antenna per caricare la spesa e ho appoggiato sulla colonnina che c'è al supermercato l'antenna che avevo in macchina, perché mi dava fastidio caricando, poi l'avrei messa dopo, poi mi sono dimenticato e l'ho lasciata lì, sono ritornato e l'antenna non verrà più, se l'avevano già presa, e allora in frequenza l'ho detto e l'ha trovata il cugino di Savilio e me l'ha ritornata, però nel frattempo avevo comprato già un'altra antenna, perché senza non potevo stare, cioè c'avevo tutta l'apparato in macchina, tutto quanto non c'avevo antenna, e niente, adesso questa qui ce l'ho nuova, mai usata, mai aperta, mai nuova, come la vendo? Antenna è già la Turbo 2001. Capito. Cosa quella, l'attacco a levetta o a farfalla? No, con la leva ce l'ha, la leva attacco anche grosso, cioè un bel perno c'ha. Ho capito, sì, è perché io già ne ho una così lunga, capito, la S9 Midland, però c'ha l'attacco a farfalla, capito, niente, se comunque già chiedo un po' in giro se ce la fai fuori, dai. No, la voleva quel tipo, che quello che mi ha chiesto poco fa il numero di telefono, la vuole quello, capito? Capito Gianni, e se la vuole vendigliela. Infatti cosa ne faccio di due antenne uguali? Quell'altra è tutta tarata bene, tutto quanto. Meno male me l'ha ritornata, a Savilio è stata una persona seria, me l'ha ritornata, poi Savilio è, dice, diciamo, mi conosce bene perché c'è una parentela insieme. Capito, no, più che altro quello che l'ha trovata magari l'ha data a lui e lui ha, magari o ha sentito che l'avevi persa e quindi dire guarda che l'antenna è ritornata, dai, importante è quella. No, quell'imbecille che l'ha presa non se ne faceva nulla, l'ha buttata nella rotatoria, il cugino di Saverio, siccome sa che Saverio modula, l'ha presa, l'ha recuperata, capito? Ho capito, ho capito. Ma anche la base magnetica c'era? No, solo lo stilo, capito? La base magnetica non c'era. Ho tolto solo lo stilo perché ce l'ho, per intenderci, a fianco al sedile, capito? Quindi quando caricavo la spesa, dovevo caricare l'acqua, mi dava fastidio. L'ho tolta perché faccio sempre così, la tolgo, poi la rimetto, capito? E adesso l'ho messa dall'altra parte, così non mi dà fastidio, tanto poche volte c'è docente, quindi non mi dà più fastidio di tanto, così non dà fastidio a me. Capito, sì, no, ma se quello te la chiede, dagliela pure, ecco perché ti stava chiedendo il contatto, dai. Intanto entra Tony, non è sempre che lo sento io. Cazzo, mi ha detto che mandava un messaggio, vabbè. Io sono qua. Tanto quell'antenna lì costa 67, è la 250, va bene così. Sì, dai, già penso che sia. Comunque adesso vedo un po' io se sento qualcuno, eccetera. Se faccio prima magari già ti avviso già. Prima che arrivo io la do, tanto non ne faccio nulla. Ce l'ho posteggiata, capito? L'ho messa sull'armadio perché è talmente lunga che non la puoi ficcare da nessuna parte. Io lo stesso, quella lunga flette lo stilo, riesco a metterla nel portabagagli, capito? E poi tanto poi ritorna nella sua posizione e a volte vado a fare la spesa e anche se metto le buste eccetera non succede niente, tanto lo stilo è in acciaio, capito? E giusto così la riesco a tenere, la lascio attaccata alla base. E adesso quando ho tempo in questi giorni voglio portare la macchina a farmela pulire dentro e fuori e poi ci ripiazzo la radio col 747. Ma la mia mi sta facendo difetto, stamattina sembrava che mancasse la batteria, faceva tic tic tic, ho misurato la batteria, cioè avevo il tester in macchina, ho misurato la batteria, era 13 e passa, quindi non era la batteria, era sicuramente l'alternatore. Probabile. Aspetta, devi far controllare l'alternatore allora. Non se ne sta scappando, si può far mettere la pettorina. Oiaia, sera non è entrato nessuno già in frequenza. No, negativo, io ho chiamato parecchie volte e non entrava nessuno. Aspetta un secondo, Carlo, no. Ok, vai tranquillo. Eccomi caro, io l'ho preso subito. La pizza te l'hai ordinata già? No, ancora no. Sei sempre occupato. Perché il sabato ne hanno richieste. Ma quello secondo me si lascia il telefono alzato, per no, magari c'è molte consegne, e allora non fa, capito, non ti dà modo di telefonare. Può essere, magari se ha diciamo già tante richieste, non ce la fa e allora attacca il telefono. E dove la prendo io? Fa anche la fine, capito? Quindi ti puoi immaginare. E poi fine settimana la gente fa i nei, adesso come inizia a rinfrescare, sai quanta ne vendono. E poi è buona quella di Carlo Pira. L'hai mai presa? Carlo Pira via Nurra. No, lì non mi è mai capitato, io la prendo via Catalocchino da Oggiano, che fa lo stesso, pizza e fainé. No, Pira è proprio alla storia, capito? Erano in via Usai, prima il padre, lo zio, sono una famiglia che facevano la fainé. Aspetta un secondo che provo a chiamare, là. Se libero non rispondo. Gianni, si porta un bel panino con spezzativo di gamberi, va bene? Ciao Gianni, c'è anche Carlo, buonasera, avanti già. Ciao, va bene Maria, va bene mamma. Che io avevo le mani, stavo sciacquando un mestolo. Ma io c'ho la cucina l'apparecchio, Carlo. Sì, esatto. Tutto a portata di mano. Meglio così. E allora già non vuole rispondere, no? No, vabbè signora, la fa a casa, il sabato la pizza e ne prendiamo due per i miei nipoti, allora sono viziati, la voglio andare dalla pizzeria, tutto qua. Avanti già, Daniel risponde, avanti Carlo. Buonasera, innanzitutto che ho preso prima al volo il mic, quindi ho pensato a rispondere perché stavo sciacquandomi un mestolo che mi era caduto in mezzo al sugo, capito? E allora avevo le mani bagnate. Niente, Gianni penso che stia cercando di ordinare la pizza. Gli stavo dicendo oggi è sabato e sono tutti super impegnati, pizza, e poi chi fa anche fine, mamma mia, ce n'è da impazzire il sabato. E oggi è un casotto, che adesso, oggi è un casotto, il sabato è pazzesco, no? Noi mia moglie la fa casa, poi prendo le poste, mia figlia chiama e verso le 9 quando esce da tabacco passa la mattina, chiudo qui. Io abito Tava, dunque mi passa a San Giovanni, da Scolo Bianco, e la mattina, tutto, e siamo a posto. E al centro è un casotto, la pizza stare poi il sabato, via, mantieni, avanti cade. E vabbè, è così, dai, è un po' di pazienza, magari già ci riesce anche lui a ordinarla. Purtroppo è così il fine settimana, io infatti quando mi capita telefono presto verso le 7:30 e magari gli dico per le 8:30 o le 9:15, perché se no non esci più, oppure se ho la possibilità passo io là e me la ordino e chiedo quanto c'è di attesa, 20 minuti, aspetto fuori un attimo in macchina e la prendo così, se no di sabato ti fanno impazzire, devi richiamarli, ma state arrivando perché era per le 9 e qua non si è visto nessuno, sono le 9:10, più di una volta mi è capitato così. E sabato dobbiamo andare alla presto, no, mattina se la ordina presto, già è mica questa, non c'è problema, se la ordina presto perché anche lì c'ha i suoi, sa, c'ha i suoi clienti, così via, c'ha un bel giro, diciamo, San Giovanni, c'ha un bel giro, e pensare c'ha, se non sbaglio c'ha 3 o 4 portapizze, figurati quanto lavora questa. La ordina prima, guarda, non ti voglio una balla, minimo la ordina verso le 6:30, 6:30 le mando un messaggio e lei a posto, dunque l'orario, quello che conosce da lavoro, passa la tira, se non sbaglio avanti già. Ecco, mi dà, già ordinatela, meno male che ce l'ho fatta, l'ho beccata. Stanotte si è a posto, era meglio così, meglio gai. Ascolta, io poc'anzi avevo lo ricevitore acceso e ho sceso anche il radio e invece c'è ragione, fuori frequenza, poi anche come segnale era tutto messo male, era molto più basso. Ok, avanti già. Ehi Amari, ma ho risolto perché ieri sera siamo andati sul 15 alfa, io mi sono spostato col clarifer, capito? Perché qua non c'è il tastino diretto 10 kHz, quindi mi sono spostato in 10 kHz col clarifer. Quindi cosa è successo? Che a me mi sentivate tra un canale e l'altro. Esatto. E no, anche ieri sera. Ci ho ascoltato ieri sera, io faccio orecchie di porco già. Quando io ho 12 minuti di ascolto ancora l'altra. Mentre faccio le cose ho lo scanner sempre acceso. Io ho ascoltato, io dico l'amico Tonino, poi c'è anche un altro che ascoltavo con Santiago di Otto, ma molto basso il radio, poi c'era un po' di QRM, tutto qua. E oggi su canali alti c'ho molto QRM, proprio alto. Bene, lasciamo le chiacchiere, avanti Carlo. Purtroppo in questo periodo ce n'è tanto di QRM, Mari. Gianni mi diceva dei canali alfa appunto che si sente di meno questo disturbo, dai, questo fastidio del QRM. Già, se capita ce li ho anche io qua, capito? Col Galaxy è facile, basta sollevare una levetta e sei a posto, ma qua bisogna usare il clarifer, capito? È centrale. Vabbè, comunque non è difficile perché devi andare tutto quanto sulla destra, devi mandare il clarifer tutto sulla destra e ti sento perfettamente. Io qua imposto quella che voglio, in digitale, capito? Cambio tutto quello che voglio, se voglio fare 27.0000 lo metto, se voglio fare 27.010 lo metto, mi capisci? È impostata così questa radio. Sì, è come se avesse, diciamo, sintonia continua, dai. più o meno, diciamo, più o meno. Non ha una, il sintonizzatore, ma schiacci il tasto step, se lo schiacci una volta ti cambia le ultime due cifre, se lo schiacci due volte dalla terza, e poi con l'altra ti cambia direttamente 27, 28 MHz, 29, 30, capito? Papa, ti voglio chiedere adesso che mi sentite come va questa radio, perché ho sostituito la capsula e vabbè, e fatto l'attacco, l'amico Luca mi ha fatto l'attacco per attaccarlo qua sul 3009. Dai. Anni, cosa ti devo dire? Va benissimo, io ti sento forte e chiaro, Santiago è sempre quello, perché siamo anche vicini, la radio va benissimo. Questo è il 3009, l'apparecchio più nuovo che ho, quello che ho comprato per ultimo, ed è un apparecchio che usavo molto poco, anche perché la radio mi dicevano che era nasina, quindi ho dovuto opzionare per mettere un altro tipo di microfono, perché l'originale me la fa nasina, non è a tutti, però a me me la fa nasina. Avanti Marino. Allora già, come segnale solito, 9.15 qua sta arrivando, e come radio è la tua, è ottima, una bella modulazione, bella pulita e ripida, bellissima, avanti. Ecco, ecco, a ecco, voi, a voi, Marino, Marino, Marino, Marino, Marino, Marino. Ottima, ottima già. Ragazza di Ecco. Continua, capito? Praticamente ho fatto una presentazione a Marino, che onore, eh? Grazie già, no, non mi aspettavo, mi hai fatto emozionare, guarda. Addirittura, dai. Allora, di Carlo, il fine c'è Carlo. Come Marino? Sì, fine, sì. No, no, finite, finite, oggi sono rientrato le di mattina, quindi domani mattina alle 5 in uscita. Grazie a te, no, io ne ho parecchio, adesso mercoledì 16 ho 3 ore di corso di sicurezza, così prendo il foglio e a fine mese mi prendo un'altra settimana, perché ne ho troppe e vogliono farle prima dell'anno, e poi le altre me le farò a dicembre, così almeno finiamo. Poi anno nuovo c'è il nome, l'azienda nuova, diciamo che cambia il nome già, l'azienda è tutto mangia, hai capito? Cos'è, cambia nome adesso? Ma cambia nome o cambia anche direttore, eccetera? Lascia perdere direttore, cambia il nome e basta, non cercare. Lascia stare, ha stato un casotto, guarda, a me non voglio parlare qui, dai, quando ci vediamo ne parliamo, per carità, guarda, uno l'ho messo come capocantiere, poi l'ho preso e sparato, non capisce un tubo. E poi non voglio parlare, ora di Carlo. Vabbè, e purtroppo non va quasi mai bene quando si parla di lavoro o di datore di lavoro, dai. L'importante è andare avanti piano piano. Speriamo che passi anche bene il tempo, e lavorando senza acciacchi, se no è anche peggio. Me ne vado, dove devo andare. Me ne vado in pensione, se tutto va bene. Se ci aspettate una nuova, aspetto. Per il contributo dovrei arrivare. Io diciamo che a giugno superavo già il 41, superavo. C'ho già 60, dunque adesso vediamo a nuovo. Sto aspettando la chiamata del Caffi, anche se mi chiama lui in settimana, non dico che non ci vado. Ci sentiamo a gennaio, perché se ogni giorno c'è una cosa nuova, ogni giorno tutto qua. E già sono sei, questa azienda aveva 2 persone che il personale lo conosceva da anni, chi lavora, chi non lavora, e organizzava il lavoro, che sa Dio non c'erano problemi e niente, con 3 mesi grossi uno si faceva anche 14 zone, diciamo. Adesso questo, quello che ho messo adesso, non so, è tutto mangia mangia, tramite il comune è tutto a posto, sicuramente stava mangiando e così via. Vediamo a gennaio, là. Vediamo a gennaio cosa c'è fuori, speriamo che fanno che fanno un balanzato prima di gennaio al comune, così questa persona che c'è in mezzo va via. Avanti già. Eia, vabbè, io faccio un quesito, vabbè, poi lo girerò anche a te, perché mi è venuta in mente una cosa, vabbè, mentre si parlava di lavoro, mi è venuta in mente di chiedere a Carlo se il suo lavoro le piace oppure se avrebbe voluto fare qualche altro tipo di lavoro. Ti posso garantire che a me non piace, ma me lo faccio piacere, avrei voluto fare un altro tipo di lavoro. Io ne ho cambiato anche diversi, capito, di lavori, ma per il 90% dei casi il lavoro che ognuno di noi fa non è quello che avrebbe voluto fare, per cui questa cosa mi consola. Queste sono statistiche Istat. Io in primis, Carlo, io avrei voluto lavorare nel sanitario, per dire. Mi è sempre piaciuto, ho fatto tanti anni di servizio ambulanza, ho fatto soccorritore, ho guidato l'ambulanza, mi sarebbe piaciuto anche lavorare in ospedale, capito? È che forse non ho avuto le dritte giuste, eccetera, però ho sempre lavorato e non sono mai stato senza lavorare, di continuo ho sempre lavorato, già d'estate quando io studiavo andavo a lavorare, andavo a scaricare bibite da Kirchi, quello che c'è la Serra Secca, guidavo il furgone e portavo le bibite per i negozi. Poi vabbè, ho lavorato, come si dice, alla Temi, trasporti europei marittimi internazionali, era sempre un lavoraccio perché partivi alle 4 di mattina, allora e poi quando arrivavi la sera dovevi caricare per il giorno dopo e stavi fino alle 10, cioè avevi tutta la giornata occupata, siccome ero molto giovane alla fine ho mollato perché mi occupava tutto, non avevo più libertà, gli amici mi dicevano ho conosciuto quella ragazza, a me mi faceva male perché non potevo fare nulla, ero occupato tutto il giorno, e allora sono andato a fare l'assicuratore per l'Alleanza Assicurazioni, ho lavorato un po' con l'Alleanza, poi avevo la ragazza, quella mi diceva sempre non ci vediamo mai, questo e quell'altro, bomba, mollo lì e sono entrato lì a lavorare al Tourism Market e sono stato 38 anni, avanti Mari, questa è la mia vita lavorativa. Allora io sono intorno alle 24-25 anni di commesso, sempre ferramenta intendo, sempre ferramenta, ho fatto Kirchi in via Tritana, ho fatto Losa, fino ho fatto anche Belcauso, ho subito non ho bruciato la permissione e me sono andato. E sinceramente mi piaceva, perché era bellissimo, solo che l'ultimo lavoro sicuramente c'era, ho fatto la novia io, ha durato un anno, poi ha chiuso perché è molto vecchio, già lo sai, i ragazzi, i giovani, diciamo i figli, non fanno quello che fanno il genitore, ha capito? Hanno fatto un casotto. E qui in casalia non mi posso lamentare il lavoro che faccio adesso, già, sinceramente io non mi posso lamentare, io in questo momento mi faccio, sono già 12-14 anni questo lavoro che sto facendo, sono sempre alla solita zona, palazzo locale, il centro storico, e anziché fare 6 ore qualcosa, adesso mi faccio sto facendo di meno. Faccio 3 ore dalle 4 e mezza, diciamo 4 e 5 fino alle 7 e mezza al centro storico e poi esco al mezzo a fare recupero la plastica nell'attività, tutto qua. Ma sinceramente non mi posso lamentare, il soldi ci sono, il bonifico arriva sempre di mese, sempre prima, mai dopo, perché già se l'azienda sgarra per pena, il comune blocca il bonifico e dunque è fregato, dunque c'è poco da cambiare. Carlo, riprendi che prendo un altro messaggio, grazie. Riprendo e vi saluto, vi devo lasciare perché quello che ho cucinato è pronto e gli altri reclamano, dai, ce la sentiamo alle prossime. Ciao Marino, Gianni, ci sentiamo prossimamente, se va bene domani sera, o non lo so se ho tempo più tardi riattacco perché è arrivata l'ora di cena. Buonasera a tutti, buon proseguo e un saluto anche a chi è in ascolto. Ok, il messaggio, ho già letto, ciao Carlo, ben sentito, mi saluto il signato di componente della casa, alle prossime sentiamo. Cioè, una cortesia a Carlo, dammi un controllo di segnale in questo passaggio. Tu mi stai arrivando quasi 9.10, quasi 9.12 qui al Fava. Avanti Carlo, dopo passiamo a Gianni per saluti, cambio. Sì, Marino, qua radio ottima, segnale 9.20 da me. Ok, ti ringrazio, avanti Gianni per saluti a Carlo. Ciao Carlo, dai, buona carica. Non mangi a gruppo. Andavi, dai, scherzo. Ciao, ci sentiamo, grazie per il QSO e ci sentiamo le prossime. Avanti, Mari. E così è già, non c'è nulla a fare, aspettiamo adesso. Comunque la stanchezza si sente, ogni mattina è peggio, eh. Ogni mattina è peggio, non c'è niente da fare. Solo si è costretto ad andare fino a. Vediamo gennaio, sentiamo cosa. Che novità ci danno, diciamo, dai. Tu quando dovresti andare in pensione? Parlo, non ti comparlo, mia figlia. Sa 5-6 mesi fa c'era un pranzo, diciamo, a casa, l'altra gente ha controllato tramite cellulare cosa l'impresa, io dovevo andare, è giusto, nel 2023 dovevo andare. Io sono andato verso giugno insieme al mio collega a fare i conteggi al CAF, il mio collega è già andato, già in pensione, la prima pensione l'ha presa il 1° novembre, e io dovevo dire, mi ha fatto il conteggio a me, io superavo già i 41, mi ha dato una modulo da compilare per l'azienda, perché io sono lavoratore precoce, più c'ho lavoratore esulante come lavoro sto facendo. Le dovevo consegnare questi documenti complicati dall'azienda, sono sempre incasinato il CAF, capito? È sempre incasinato, comunque adesso sto aspettando la chiamata, non mi ha più chiamato, però se mi chiama adesso dico ci vediamo già a gennaio e faccio prima che ci sono le novità, capito già? Novità e vediamo cosa dico. Avanti. Io ho già fatto la visita e ancora non mi ha dato risposta, l'ho già fatta già dal primo di novembre, adesso vediamo. Ma è la visita per, diciamo, adesso mi scappa il nome, dai, non mi esce già, ho capito comunque, dai. Ma è strano, non ti ho chiamato, dal 1° novembre, mi hanno detto che stiamo facendo veloce, sono lenti adesso, perché un collega mi ha detto l'ha fatto, non so come l'ha fatta, in giro di 15 giorni è stato che è arrivato già lei a casa, capito? Sì, la mia è pensione di vecchiaia, non è di validità, di vecchiaia. Esatto, ma mi sono dimenticato di validità, stavo parlando, là. Ma non vado a arrivare piano piano, vai, già arriva, adesso sono limpidi e incasinato già, limpidi e incasinato, non c'è nulla da fare. Da me per esempio c'è molta gente che ha avuto problemi al cuore, ha il 67% di invalidità, vabbè io ne ho 50 perché da meglio sano, 50 perché uso quel macchinario per la respirazione che io vado a prendere, diciamo là. C'ho il 50%, però non mi interessa, meglio sano. E ci vogliono dire, ritirano lo stipendio da noi e poi ritirano i soldi, la pensione contributiva, capito? Ogni primo del mese c'hanno il bonifico del conto, ogni mese. Diciamo l'azienda con la pensione si trattiene, dipende quanto ritira, intorno ai 250-300 euro, capito? Avanti, anche nel 2005, quella che ci chiama del Lupi, diciamo, insomma 2008 e così via. Mi auguro che non superi il reddito, se no li fanno come hanno fatto a me. Anche io facevo così, ritiravo sia quella di validità che lo stipendio, solo che di stipendio prendevo troppo e quindi praticamente ha superato il reddito, mi sono dovuto pagare quasi 3.000 euro, 2.980 di... Ho dovuto restituire i soldi, insomma, all'Ips. Comunque è uno schifo, eh. È uno schifo perché io non so, i conteggi, perché non ne fanno prima? perché non fanno un conteggio? Se una cosa non mi tocca, non me ne dà direttamente, ci metto una persona in mezzo ai casini, sinceramente, metto una persona in mezzo ai casini. Diciamo che noi diciamo, ogni settimana diciamo, l'azienda nostra la fa, le tasse, per esempio, invece di pagarle al 10% del coso, si fa pagare al 15% o al 20% tutto l'anno, poi se più tranquilli a fine anno, hai capito? E a fine anno abbiamo magari chi supera, vabbè, un discorso, chi non le supera magari arriva giusto giusto, forse gli elevo, capito? Maria, siamo in mani loro se la prendono con molta burocrazia, fanno tutto lentamente, boh. Adesso vediamo, vabbè, io ho quella di validità, io ce l'ho 80%, capito? Ce l'ho 80%. Ho capito, ma non basta, speriamo che arrivi in esito dell'alta pensione, diciamo la pensione giusta. Per esempio adesso ti dico una cazzata, lasciamo perdere questa pensione. Io abitavo al monte, poi ho fatto la casa in campagna, quella del monte me la affittavo, ogni anno facevo 7,30 e pagavo un casino, perché io scaricavo, registravo tutto, o facevo le entrate. Se mi facevano pagare l'anticipo per il prossimo anno, se io crepo questi soldi che fine fanno? Non è mia moglie, se la mangiano loro sicuramente, sempre l'anticipo, capito? Sì, è perché agli esercenti non fanno così, li fanno pagare la tassa sia che vendi sia che non vendi, la tassa la paghi sempre uguale. Magna loro, è una cosa pazzesca, è uno schifo, sempre al povero, non c'è niente da fare, i soldi vanno ai soldi. È un gasotto, beh, ma Tonino sta meglio, sta facendo la bioterapia, sì. La terapia? Sì, Tonino. Sì, la sta facendo, sta continuando a farla, sì. Meglio così, dai, io l'altro giorno mi stavo ascoltando, ma c'avevo gente, mi stavo ascoltando da un ricevitore, capito? Comunque qui arriva a 9:10 qui a casa, va bene, siamo quasi vicini. Allora, diciamo a San Camillo, là. Comunque 9:10, un quarantino già va benissimo, ottimo. E io quanto arrivo? Adesso 9:20. La differenza si vede, no? O si nota? Cappagatto. No, poco fa mi hanno fatto spaventare, perché questo apparecchio è nuovo, l'ho usato pochissime volte. Se mi hanno detto che stavo uscendo fuori frequenza, mi sentivano attratti. Io ho guardato anche il PL dietro, aveva attaccato bene, era appena svizzato, l'ho riavvitato bene, magari era il PL, ma mi sembra strano perché toccare toccava lo stesso. E invece era, vabbè, avevo toccato il coso, il tarico, e poi non l'ho messo a posto ieri. E comunque è un bel bello modulare dei canali alfa, non c'è QRM, è una telefonata. E come si modulava una volta già, capito? Una volta si andava su quei canali e si modulava tranquillo, sereni, e nessuno lo poteva scappare. Oggi non c'è nessuno, ma prima c'era il mondo in frequenza già lo sai. Non è giusto, anch'io, il ricevitore ti sentivo esatto quello che ha detto Claudio, fuori frequenza, pure a tratti con il microfono, un'azione di tratti, non ti sentivo bene, anch'io, e pensai che non ascolto, non potevo entrare perché era quello di ricevitore, ma adesso la modulazione è bella, chiara e ottima, va benissimo. E prima tutto il discorso del verso, prima si modulava fino alla mattina, tu per caso l'hai conosciuto a Rundine, a Tonino e a Nando, i due fratelli che abitavano in Via Valdezza? Sì, li ho conosciuti, non conosciuti di persona, ma li sentivo. Anche a Ragus, a Petrus che abitavano lì a Sacro Cuore, e ne ho conosciuto Lucchetto, Palpal Pegastro, tutti quelli lì vecchi di 45 anni fa, penso, io ci sono mai in frequenza. Solo che io mi sceglievo il canale, capito? Se vedevo gente che non mi piaceva non c'entravo, io mi sceglievo il canale dove c'erano donne. Esatto, e purtroppo così anch'io quando la casa di mamma modulavo fino alla notte tardi, come Stellantina e compagni, Luce, poi c'era, c'era gente, c'era la ciliegina, conosciuto lei? Chi? Ok, a quella con le sue persone perché abitava a fianco a casa mia, diciamo, là, è sposata, c'è anche dei figli, ciliegina. Poi c'era Gabbiano era giù a Bancari, Nino Gabbiano. Nino lo conoscevo anche di persona, Nino Gabbiano. Sì, è a Puglia, Isidoro e Campanella, però quelli sono venuti dopo, prima ce n'erano tanti altri, c'era Sambuca, io ero il primo di Sambuca, c'era Shadow 2, da via Pascoli, poi c'era Manuel. Sì, ce n'era, c'era Rosa Verne, io mi ricordo Rosa Verne, il casino faceva pazzesco, Rosa Verne era un cervellone, ma come portante era ottimo. Grazie per la Rosa Verde, gaffa. Come lavorava, se non sbaglio lavorava a Fiumessanto, a Pollotose lavorava. E poi ha fatto il barbone per un bel tempo. Io lo vedevo sulla Budi, in estate con questo cappotto di quelli pesanti che si usavano da militari, che si grigi, e con uno zero sulle spalle, barba lunga, ha fatto la fila del barbone. Vabbè che non ha mai vissuto, diciamo, discretamente, è sempre stato in un magazzino, ci metteva la moto, poi sul dipolo che aveva fatto dentro casa ci stendeva la roba. Fanno tutto. E comunque usciva bene, già usciva abbastanza bene e metteva abbastanza portanti e rompeva le palle a tutti. La portante d'oro, prendi quella Rosa Verde, gamba, l'ho più rotto lì quel bip che mi dai un senso di superiorità nei confronti degli altri. Soprattutto voi, non c'è da fare. Casinista, ok, già ne approfitto che mi stavo chiamando. Dai, ciao già, a domani se coincide, ciao una signora, va? Ciao a tutti quelli in ascolto, quelli di per me, va? ciao già. Ciao Mari, ciao, ci sentiamo, dai, buona carica, quando l'ha fatto stanno per arrivare anche le pizze qua. Ci sentiamo, stammi bene, tante cose belle, dai, a domani, ciao a tutti gli ascoltoni anche. Ciao.